Il titolo della tesina, che ho dato alla tesina che vi presento questa sera è I sette passi del cammino spirituale secondo la visione mistica. E il mio intento con questo lavoro è quello di presentarvi alcune mistiche europee di cui alcune già abbiamo parlato, che hanno tracciato il loro sentiero spirituale delineando sette passi, sette gradini o sette modi che portano alla perfezione e all'unione col divino. Quelle che vi presenterò stasera, che ancora non conosciamo, sono Adwechi Anversa e Beatrice di Nazareth, conosciuta come Beatrice. Mentre le altre due antenate che già conosciamo sono Marguerite Porete e Teresa de Avila. Tutti e quattro in epoche diverse, ma con modalità parallele, hanno sperimentato e insegnato anche questa visione spirituale attraverso il numero 7, creando un pensiero di una levatura veramente straordinaria, sia a livello filosofico, metafisico, anche teologico, per quanto io poi non sia un'esperta. E in alcuni casi questo pensiero è stato nascosto e denigrato per veramente troppi secoli e fortunatamente è stato riscoperto. Giusto due parole sul numero 7, perché è importante capire come questo numero le abbia legate tutte, no, insieme, abbia legato tutto il loro lavoro insieme. Da sempre il numero 7 è stato considerato un numero sacro, che rappresenta un po' la completezza, ma una completezza dinamica, nel senso che è un ciclo che si compie per divenire un qualcos'altro. E quindi è proprio, identifica quello che è il percorso evolutivo della natura umana, che poi in diversi tipi di discipline, è stato chiamato illuminazione, iniziazione, in tanti modi diversi. Quello che al di là poi di come ogni religione e ogni credo abbia fatto suo e abbia utilizzato questo numero sacro anche per appunto la sua dottrina questo tipo di relazione tra le religioni e il numero 7 è ovunque, in tutte le religioni, in tutto il globo. Basti pensare, non so, anche alle tradizioni spirituali i sette chakra della tradizione indiana o le sette direzioni della ruota medicina degli indiani d'America. Quindi anche al di là delle dottrine religiose codificate, comunque nella spiritualità è sempre stato un numero importante. Quello che mi affascina è che questo numero riprende quello che è la misurazione dei cicli della natura su base 7, che è la base delle lunazioni. Sono le quattro fasi di 7 giorni della luna, del ciclo della luna. Nel libro Il sangue, il pane e le rose di Judy Grant, con il sottotitolo Come le mestruazioni hanno creato il mondo, lei proprio delinea come il calendario, la suddivisione del tempo e la misurazione in generale, insomma, siano proprio una derivazione dell'osservazione del ciclo mestruale in relazione allo spostamento della Luna. E questa osservazione, secondo lei, secondo questa teoria, ha portato la mestruante a creare la coscienza umana e poi successivamente a condividerla con la tribù di appartenenza. Quindi questo numero, insomma, seguendo questa teoria, ha indubbiamente un rapporto forte anche con il corpo della donna, non solo con i ritmi della natura e con tutta la ritualità che ne consegue. Queste quattro mistiche che adesso vi presenterò hanno delle affinità molto che vanno al di là dello spazio-tempo. Se Adwech, Beatrice e Marguerite sono vissute più o meno nella stessa regione, sono tutti e tre nate nella zona brabantina, Marguerite in quella francofona, mentre Beatrice e Adwech sono nate in quella, l'attuale Belgio, insomma, nel Brabante olandese. Teresa invece, 3 secoli dopo di loro, sarà in un contesto in Spagna, in un contesto anche socio-politico e culturale completamente diverso. Tutte le prime tre mistiche sono state beghine, però tutte e quattro hanno conosciuto la sorellanza in modi diversi. Beatrice e Teresa hanno preso i voti, mentre Adovech e Margherita hanno vissuto la vita beghinale e gli scritti che ci hanno lasciato sono quelle che le hanno segnate a vita. Di Marguerite lo sappiamo proprio, di Adevech, come vedremo, non si avranno grandi notizie, ma scopriremo cosa le è successo, insomma. Per quanto riguarda invece l'ambito religioso, tutte e quattro si muovono nella religione giudaico-cristiana che conosciamo, ma con un concetto di divinità che va oltre la connotazione religiosa culturale come la conosciamo noi, insomma, come la conosciamo noi, no, in realtà come ci viene insegnata al catechismo, insomma. Il loro concetto è proprio metafisico, è quella concezione che forse è più vicina a quello che noi oggi chiamiamo l'universo. A sottolineare questo, tutte e tre le prime fisiche che ho citato parlano di quella che è la Minne o Frau Minne, come diceva Matthew di Magdeburg, no? Che abbiamo già visto anche lei. Marguerite la chiama Dame Amour, insomma questa signora amore, in tutti i casi scritta in caratteri maiuscoli e coniugata al femminile sempre, che è la forza creatrice ed è la materializzazione della divinità. In pratica questo filo conduttore che lega tutte e tre queste donne nell'amore, nella visione di questo amore come donna, come grande madre, è proprio un richiamo a quella che è appunto la grande madre, la madre terra, la forza creatrice che tutto dà e tutto toglie. E poi vedremo come loro giocano su questi poli alternati. Un altro cenno, prima di presentarvele, che è importante sottolineare, è questa cosa accezione del piacere fisico nell'esperienza mistica, questa loro idea del piacere fisico, dell'erotismo, no? Come abbiamo visto già in Mädchen di Magdeburg. Da una parte c'è questa l'idea dello sposo, l'idea del matrimonio mistico, quindi dello sposo celeste e del vivere nel fisico il piacere di raggiungere questa unione è indubbia, ma non è la meta, non è il, come posso dire, non è l'intento del loro percorso. Cioè, la loro idea, il loro intento è proprio quello di trascendere quello che è il mondo fisico, andare oltre, andare al di là e seguire quello che è un cammino spirituale prima che fisico. Il fisico è il mezzo, il corpo è il mezzo. C'è anche da dire che in questi periodi, sia nel periodo di Teresa che in quello delle altre tre del 1200 dove, 1003, dove collochiamo le altre tre donne mistiche, è un periodo in cui c'è anche questa cosa della privazione del fisico, ma anche non soltanto della privazione a livello fisico, ma anche di un rapporto che sminuisce il corpo. Sia Teresa che Beatrice, si sa, queste cose sono documentate, praticavano insomma la mortificazione della carne e la consigliavano. Quindi c'è questa dualità anche in questo concetto, un corpo che da una parte è il mezzo per trascendere e arrivare a Dio e dall'altra viene mortificato. Non penso, questa è un'opinione mia, che Marguerite e Hadewijch avessero questo rapporto col corpo. Nei loro scritti loro mettono corpo e spirito alla stessa altezza perché entrambi creati dalla forza divina. Ora io questo non so se è una mia, è un mio sentire perché non so se cioè non ci sono a livello biografico non ci sono notizie di questo, però penso che a livello di vita beghinale sia stato l'istruzione sia stata un po' diversa. Questo non so, poi magari ne possiamo anche parlare insieme. In generale, comunque, il corpo per tutte e quattro, arrivate a un certo, a un certo livello del percorso, diventa pesante. La scomodità della materia, cercando di trascendere, di arrivare appunto verso il divino, è sentito come un qualcosa che priva lo spirito della possibilità di anelare al divino. Quindi c'è questa pesantezza, indubbiamente. Ora, partiamo con Hadewijch di Anversa, che probabilmente è nata intorno al 1200, ma in realtà di lei non si sa veramente niente, se non attraverso i suoi scritti, che sono stati scoperti 5 secoli dopo, a partire dalla metà circa del 1800. Probabilmente Hadewijch non è neanche il suo nome e potrebbe essere un nome che ha adottato quando lasciò la famiglia d'origine e probabilmente non è neanche stata o non ha vissuto neanche ad Anversa, ma la lingua brabantina volgare che utilizza e gli stili, lo stile letterario che utilizza magistralmente, la collocano proprio in questa zona di questa regione dell'attuale Belgio. E ci fa capire che sicuramente ha avuto un'istruzione elevata, quindi probabilmente arrivava da una famiglia ricca o comunque altolocata di origine aristocratica. Di lei ci arrivano 45 canti scritti in giovane età, 29 o 16, poi vedremo il perché, poesie miste, 14 visioni. E 31 lettere che lei scrisse ad amiche, fidate, discepole, probabilmente del beghinaggio, che poi vedremo perché dovrà lasciare. Quindi sappiamo dalle sue opere che fin dall'età di 10 anni circa ha avuto delle visioni veramente forti che l'hanno fatto conoscere quello che è l'amore, il cammino verso l'amore, ma che l'hanno provocato molta sofferenza. E da qui nasce il suo giocare con gli opposti, tra beatitudine e tormento. Lascia la famiglia d'origine, la sua casata, si ritira probabilmente per una vita comunitaria di povertà e sorellanza e probabilmente fonda un beghinaggio, che però successivamente, come sapremo dalle sue lettere, deve lasciare per darsi a una vita errante e clandestina. Per ragioni che non ci sono pervenute, però lei parla di questa sua amica, che anche lei, che, di sentirsi minacciata e che questa sua amica, che secondo lei seguiva la via del giusto amore, è stata uccisa. Sicuramente, insomma, siamo in periodo dell'Inquisizione, quindi lei parlando della signora amore come fonte divina, sicuramente non poteva essere al sicuro. Così come della vita, anche della morte di Hadewijch, non si hanno tante notizie, anzi, non se ne, della morte proprio del modo in cui ha lasciato il corpo non si sa proprio niente. Si ipotizza che la famiglia d'origine abbia cercato di insabbiare la sua storia, un po' per proteggerla, un po' per proteggere il proprio onore. E bisogna dire che questa operazione è avvenuta con grande successo per 5 secoli. Studiosi e studiose in materia sono molto contrariati, hanno opinioni contrarie sia sulla vita che sulle sue opere. Come dicevamo, 13 delle sue poesie miste sono state pubblicate con il nome di Pseudo Hadewijch oppure Hadewijch II, presupponendo che siano state scritte appunto da diverse mani o da più mani. Io condivido invece l'ipotesi che siano state scritte tutte dalla stessa autrice, perché sia i canti che sono stati scritti in giovane età, sia le visioni che sono state rielaborate in età più avanzata, si vede tutto insomma, l'evoluzione stilistica e interiore e spirituale di questa donna. Quindi io sono convinta che l'amore, questa signora amore l'abbia proprio rivoluzionata in tutto il percorso della sua vita, che è stato comunque molto irruento, molto anche non si è fermata un attimo, insomma, sta donna, sempre a sfuggire a questa grande minaccia che la seguiva. A livello stilistico, è l'unica delle quattro che parla in prima persona. Le esperienze di cui lei scrive sono quelle che lei vive sul suo corpo. E qui viene fuori tutta la sua destrezza linguistica, tutta l'intensità e la profondità che sono veramente palpabili nei suoi scritti, nelle sue poesie. Parla della natura e usa la natura come mezzo per descrivere anche in antitesi il suo sentire. Come base del cammino spirituale che vedremo, di questi passi del cammino, noi prendiamo la sedicesima delle poesie miste, in cui lei non descrive un vero e proprio sentiero spirituale, ma in questi sette nomi, che sono gli appellativi di cui lei dà dell'amore, questi sette nomi seguono molto bene tutto il cammino che fanno anche le altre tre mistiche. Quindi li ho inseriti perché sono, a parte che lei nei suoi scritti proprio fa da cornice a tutto quello che è questo sentiero, e il suo sentire viene proprio fortemente enfatizzato dalle parole anche delle compagne, delle sorelle. Passiamo invece adesso velocemente a Beatrice, che nasce nel 1002, di lei si hanno date, e di lei ci arrivano due testi, uno scritto da lei in Brabantino Volgare, intitolato I sette modi di amare Dio, e l'altro è La Vita, che sono tre volumi tradotti in latino da un monaco cistercense anonimo, che probabilmente era confessore in uno dei conventi in cui lei fu badessa, e che dice apertamente, confessa di aver trovato un libro delle memorie della monaca, che a noi non è pervenuto, e di aver revisionato alcune parti, perché secondo lui alcune facevano più danno che utilità. Quindi questo biografo, se da una parte si rifà a questa descrizione pomposa della geografia tipica, geografica tipica del tempo, no? Molto elegante, pomposa, per rimarcare la santità di questa donna, dall'altra cancella, elimina quelle che sono i passi, i testi più intensi del testo originale. Lo vediamo perché una parte, appunto, che ci è arrivata in Brabantino Volgare originale, e si vede la differenza tra la lingua originale scritta di pugno da Beatrice e quella tradotta in latino. Allora, di lei, della sua vita, in realtà si ferma quando lei ha 37 anni e lei lascerà il corpo a 68, quindi tutta l'ultima parte è completamente, non viene presa in considerazione. Perché si vuole un po' più, appunto, è evidente che lui vuole rimarcare tantissimo questa sua idea di santità di questa donna e perfezione della sua vita. Allora, lei nasce, come dicevamo prima, nel 1200 a Tienen, nel Brabante Fiammingo, da una famiglia benestante, anche lei istruzione elevata sin dalla giovane età, e dimostra di essere molto perspicace e intelligente da subito. La madre è una donna molto devota, il padre è curatore delle interazioni esterne di tre monasteri che ha aiutato a fondare e di cui poi, in cui Beatrice poi affronterà tutto il suo percorso spirituale. Alla morte della madre, il padre con alcune figlie e figli si dà i voti e entra in convento. Quindi lei a 7 anni entra nel beghinaggio di Zautlium, dove continua i suoi studi nelle arti liberali e diventa veramente la sua intelligenza diventa sempre più perspicace. Entra 10 anni in convento, nel primo convento creato dal padre a Blumenthal, come oblata. E si dice che a 15 anni già sapeva leggere e commentare i testi latini di Sant'Agostino e dei teologi del 1200. Si sposta per un periodo in un convento del Brabante francofono a Laramè, dove incontra Ida de Nivelle, alla quale si lega da un'amicizia veramente profonda che durerà per tutta la sua vita, per tutta la vita più che altro di Ida, perché è maggiore di lei e lascerà il corpo prima. A 25 anni torna nel Brabante Fiammingo, prende i voti nel convento di Magdendal e 11 anni dopo, con alcune sorelle, si trasferisce nel convento di Nazareth, dove diventa badessa l'anno successivo e rimarrà lì finché lascerà il corpo a 68 anni. La sua opera è proprio legata ai 7 nomi, i 7 modi di amare Dio ed è proprio quella che andremo insieme a commentare a confrontare a quella delle altre. Di Marguerite e di Teresa, velocemente, vorrei sottolineare il fatto che di Marguerite Porrette, anche lei nasce intorno al 1250-1260, quindi in quel periodo lì, e il suo testo, Lo specchio delle anime semplici, è un'opera veramente sublime e complessa. Quello che andiamo a vedere sono alcuni capitoli nella parte finale del testo, dove lei parla degli sette stati di grazia in cui l'anima diventa fa un nome particolare, da smarrita, ecco, non mi veniva il nome, da smarrita diventa annichilata. Quindi questo è il percorso dell'anima che lei porta. E questo lo fa attraverso il dialogo dell'anima stessa, di Dama Amore e Dama Ragione, facendo intervenire poi altre entità in questo dialogo. Teresa invece, 1500, il suo periodo di appartenenza. Il libro che prendiamo in riferimento è Il Castello Interiore, dove lei si rivolge alle monache carmelitane, delineando questo percorso spirituale in cui il castello interiore è proprio l'anima. Ed è questo meraviglioso edificio di diamante e cristallo, che è ricco di mansioni o stanze o dimore, che lei chiama in diversi modi, che stanno al suo interno. Si parte da quelle esterne per arrivare a quella centrale dove si incontra, lo sposo divino. L'ingresso di questo meraviglioso castello interiore è l'orazione e la meditazione. Da notare che il Castello Interiore è proprio quel testo che fece convertire Edith Stein, la mistica che abbiamo già incontrato, alla religione, cristiana e che la portò poi nel suo percorso personale, verso la religione e spirituale soprattutto. Ok, allora. Partiamo con questo percorso. Quello Che che oggi sto faccio. parlando, Mara, Sì. posso stopparti un attimo perché quando prima parlavi di Margherita Porrette e hai parlato di Dama Ragione, è arrivata Christine De Pisani in Amorvilla, perché anche lei ha costruito la città delle dame con le dame, ragione, rettitudine e giustizia. È Quindi vero. ragione è la stessa dama, e allora è qua che fa l'occhiolina che mi fa notare che si sono scambiate la dama, Cristina e Margherita, anche perché non sono molto distanti come periodo. È vero. Ok, vai pure. Grazie. Allora, partiamo per questo percorso. Il primo passo, la prima tappa è proprio l'inizio, è la partenza. E quindi si porta appresso non solo una richiesta di attenzione alle novità che stanno intorno a noi, ma la paura del salto del vuoto, quindi l'assumerci anche la responsabilità di queste azioni che sono nuove. Queste quattro mistiche, partiamo da Adewech, che dà il nome, il primo nome dell'amore che dà è il legame, cioè è quell'incontro con la Minne, con la signora amore, che quel richiamo che arriva dal profondo e non ha possibilità né di distrazione né di rinuncia. Per Beatrice è il desiderio attivo, sempre dell'amore, della Minne, la ricerca della libertà, della purezza come ragione di vita. E anche per lei è il cuore il centro di questo cammino. Marguerite parla di grazia divina, il primo stato di grazia è proprio la grazia divina. È quella forza che tocca l'anima e che ci fa diventare incapaci di peccare. Lei da subito parla della necessità di avere un cuore gentile, coraggioso, per iniziare questo percorso, perché l'anima deve diventare semplice, nel senso proprio letterale di sine plica, cioè senza piega, pura. Per iniziare in questo, per dare il via a questo primo passo, è necessaria la prima morte mistica di Marguerite, quella che lei chiama la morte al peccato, per rinascere alla vita di grazia, appunto della grazia divina. Teresa invece parla della conoscenza di sé come il primo... come il primo requisito per entrare nelle prime stanze del castello. L'attenzione quindi è su di sé e non solo dentro, ma tutto intorno a ciò che ci circonda, perché le prime stanze per Teresa sono buie. Noi non vediamo quello che abbiamo intorno, non lo capiamo, e ci portiamo appresso in questo castello tutto quello che lei chiama creature nocive e demoniache, che noi percepiamo soltanto e ancora non capiamo bene. L'anima, infatti, è ancora invischiata nelle cose del mondo e ci vorrà tutto il percorso per alleggerirsi. Quindi il primo passo è proprio quello della volontà di andare dentro con coraggio, di guardarci per quello che siamo, per quello che si è. Secondo passo, il numero due, è il numero della dualità. Quindi è il numero anche della separazione e quindi della scelta. Cosa impariamo da questa dualità? Per Hadweg il secondo nome è quello della luce. È la luce che illumina quali sono le forme e i comportamenti dell'amore, sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista divino. E qui vediamo la dualità. Che a lei è molto cara perché, come dicevamo prima, oscilla tanto tra gli opposti. Questa luce divina dell'amore mette proprio in chiaro la nostra nudità e la necessità della purezza, di essere essenza pura. Il secondo modo di amare Dio per Beatrice è il servizio. Il mettersi al servizio senza interesse, senza aspettative e senza misura, qui richiamando quella che è la compassione, soprattutto verso noi stesse. Del servizio vedremo nella tappa successiva meglio, perché ne parlano anche le altre mistiche. Questo ci fa capire come queste tappe in realtà sono comuni nelle tematiche che sono costanti, ma sono mutevoli perché il percorso è personale, ognuno è la scoperta individuale della propria anima. Quindi se appunto le tematiche sono costanti, le tappe sono mutevoli. Marguerite Porrette parla nel secondo passo, parla dell'esempio. Cioè l'imitazione della vita di Gesù e del distacco necessario per la seconda morte mistica, quella alla natura, per rinascere allo spirito. Come morte mistica alla natura lei intende proprio la consapevolezza che siamo umani, cioè quell'umanità che traspare dalle necessità appunto di essere umani e di essere umane. Questo vuol dire da una parte essere vulnerabili, finite e mancanti anche, ma questi sono i bisogni veri e non superflui, cioè andare a vedere proprio quali sono le necessità e accettarle per quello che sono. Non possiamo trascendere il corpo fisico. Quindi accettare questa dualità e viverla. Per Teresa, invece, la seconda tappa è quella della perseveranza, perché c'è bisogno di tanto coraggio e di perseveranza per continuare il cammino verso l'amore. Noi ci troviamo, le seconde stanze sono un po' più luminose rispetto alle prime e iniziamo a vedere cosa c'è intorno a noi e questo spaventa. Quindi per vivere la dualità con consapevolezza, che è proprio la chiave del secondo passo, dobbiamo imparare a riconoscerla, accettarla e anche quando questo non ci piace. Il terzo passo è quello della creatività, il 3 è il numero della creatività della perfezione. Qui si parla dell'attitudine verso l'esterno. Una volta capito come è iniziato questo percorso, iniziamo a guardare non solo dentro ma fuori. E quindi come ci poniamo nel mondo? Adewech parla del carbone vivo come terzo nome dell'amore. Cioè la luce che c'è del secondo passo infiamma, inizia a infiammare l'anima, accende, che viene accesa appunto da questo carbone, che è vivo. E, per fare questo però l'attitudine, per iniziare a sentire questa fiamma dentro, questa luce che si infiamma dentro di noi, bisogna porsi con umiltà e servizio. Beatrice, che parlava prima del servizio, ora parla della dualità, del disagio e della miseria e dell'inadeguatezza che noi affrontiamo nel servire il divino. Questa sfida che ci autoimponiamo di essere perfette anche in questo campo è difficile perché non è contemplabile la perfezione nell'umanità, nel mondo fisico, nella fisicità. E quindi è un compito infattibile che provoca miseria, appunto, sofferenza e disagio. Per Marguerite, il terzo passo è quello del sacrificio, cioè la rinuncia delle opere che l'anima ama fare per attaccamento, cioè affidarsi alla volontà divina e non alla propria, perché cercando di distaccarsi da quello che è ciò che noi amiamo fare, perché per volontà propria, appunto. Questo distacco dall'io personale è proprio il parallelo con Magcig è proprio calza pennello. E quindi è interessante vedere come dal suo punto di vista la necessità di congedare le virtù è in funzione del fatto che le virtù ci rendono schiave se noi le vogliamo costringere a stare dentro di noi. Non siamo libere se vogliamo avere le virtù. Non è una questione di possesso, ma lasciare questo fardello e mettersi al servizio della Dama Amore rende queste virtù fruibili attraverso l'amore stesso. E lei fa proprio questo paragone tra le virtù che noi ricerchiamo con la nostra volontà personale, che che sono scritte in minuscolo, e invece le virtù, come elogiate dalla Dama Amore, che sono scritte in maiuscolo, perché arrivano dal divino. Per Teresa, il terzo passo è quello dell'umiltà e del servizio, cioè mettersi a disposizione nell'amore, nella dedizione, nelle opere quotidiane verso gli altri. Teresa dice che la ragione può mettere degli ostacoli che ci fanno perdere per la via, perché l'illusione e il giudizio passano attraverso la ragione. Ed è interessante come Marguerite fa proprio dialogare la Dama Ragione con Dama Amore, e vedremo poi nei passi successivi come Dama Ragione si sottometterà, si lascerà, si metterà proprio al servizio di Dama Amore. Adebeck invece sottolinea come la ragione sia sì una trappola, ma non va eliminata, perché è utile nella perseveranza e nella verità. Quindi, per riassumere il terzo passo, servizio, dedicarsi senza giudizio o aspettativa alle azioni e alla volontà divina, il sacrificio nel senso del sacro fare, e l'umiltà come madre di tutte le virtù e proprio come modo di porsi nel mondo. Il quarto passo è quello della solidità, della stabilità della materia. Qui si parla di ordine, di responsabilità e veniamo per forza, cioè veniamo in relazione con quello che è il potere. Che cos'è questo potere? Come si manifesta? Per Adeveh è il fuoco, cioè quella forza di unione e trasformazione che è l'amore in realtà, e che non possiamo vincere, noi possiamo solo arrenderci. Lei gioca anche tanto, come dicevamo, sugli opposti tra vittoria e resa, anche su questo, che l'unico modo di vincere è arrendersi, appunto. Del fuoco poi vedremo bene anche successivamente sull'amor furente, lo vedremo nel passo successivo. Per Beatrice, lei parla di estasi e sofferenze, quindi siamo ancora nella dualità, questa passione intensa, il desiderio di intimità e di libertà, ma il corpo che soccombe allo sforzo dell'anima e si trova distaccato da quello che è questa passione nel momento in cui ritorna in sé. Per Marguerite, invece, meditazione e contemplazione è il quarto stato di grazia, la ricerca del ristoro attraverso il silenzio e la solitudine. Mette bene in chiaro, così come fa Teresa, qual è l'intento della preghiera, che non è supplicare, non è un cercare di chiedere quello che noi vogliamo con la volontà propria, ma per lei e per Teresa anche, ma come penso per le altre due mistiche, è proprio la ricerca di quello che è l'amore leale e incondizionato. Anche Teresa parla di preghiera e parla di diletti che lo sposo inizia a elargire insomma, a colei che si incammina per questo sentiero. Questi diletti vengono portati attraverso l'orazione, appunto attraverso la preghiera. Sono doni immensi, inaspettati, che provocano tanta gioia, ma tanta sofferenza perché ci portano in un cammino di dubbi e di inquietudine, soprattutto dovuti alla provenienza. È tutto nuovo, ancora non sappiamo come funziona e quando iniziano ad arrivare tutti questi messaggi, ne abbiamo anche timore. Quindi, quarto passo, il potere è l'amore stesso. Non viene da noi, ma possiamo fruirne. Se ci mettiamo in ascolto e se ci mettiamo in ascolto verso l'interno, verso il nostro cuore e con il cuore ci apriamo verso l'esterno. Come dice Adeveh, la fruizione arriva da sé, non va forzata e non ci sono regole, perché per ognuno avviene in modo diverso. Il quinto passo è quello della sperimentazione. Una volta trovata la stabilità del quarto, bisogna ricercare un ideale nuovo, uscire quindi dalla zona comfort e arrivare all'ulteriore salto nel vuoto. Per Adeveh, il quinto nome è quello della rugiada, che che quella forza che acquieta la fiamma della passione che abbiamo visto prima, che era il fuoco. E qui ritornano i due opposti che si sublimano, il fuoco che viene spento dall'acqua per sublimarsi nell'amore eterico. Beatrice parla dell'amor furente, di cui parlava prima anche Adevech e di cui ne parla veramente tanto lei. Usano una parola che io adesso la pronuncio come Orvut, non so se si dirà così, ci provo, ed è proprio un uragano che prende l'anima, frantuma il cuore, divora il fisico. E non c'è appagamento però per questo amor furente, perché c'è talmente tanta bramosia di avvicinarsi al divino e di non arrivare mai, che provoca tormento. Quindi queste forti sensazioni, descritte anche in modo crudo da entrambe, sono laceranti. Il quinto stato di grazia per Marguerite è la volontà. Qui è proprio il passo decisivo in cui si abbandona la volontà personale e ci si affida completamente a quella che è quella divina. Ci si libera dell'orgoglio, si lasciano il desiderio e le virtù si lasciano andare, Dharma Ragione si inchina davanti ad Amamore e avviene la terza morte mistica, che è quella dello spirito, per rinascere al divino. Poi ci torneremo anche su questa morte dello spirito, perché ritornerà nei passi successivi, con l'idea appunto che la spiritualità stessa può essere attaccamento. Per Teresa il quinto passo è quello dell'unione. Lei parla proprio di un tipo di orazione che chiama orazione dell'unione, di preghiera quindi, che porta a stati molto intensi e dove il corpo inizia a sradicarsi dalla materia. La sofferenza dell'anima però è tanto forte quanto è il piacere che ne deriva da questi stati, da questi momenti di preghiera. E il peso degli affari terreni diventa logorante. E veramente, ancora però queste situazioni, queste sensazioni sono ancora passeggere, non sono ancora forti come vedremo nelle stanze successive. Il superamento della dualità avviene proprio nel quinto passo, in questo passo. Quindi affidarsi al sentire, anche quando è in contrasto con ciò che abbiamo sempre saputo e ciò che ci è sempre stato insegnato, è quello che Marguerite chiama in modo proprio eloquente il morire tutte le morti mortali, in nome dell'amore. Cioè, vivere nella libertà, nella semplicità, vuol dire lasciare andare, essere nude, essere semplice e lasciare andare tutte quelle sovrastrutture che ci portiamo sempre appresso. Il sesto passo è la ricerca dell'equilibrio e dell'armonia, è il passo della visione, se pensate il sesto chakra anche, no? Ed è appunto il cercare di andare oltre il punto di vista, il nostro punto di vista, e qui c'è proprio la scelta. Come aprire questo occhio della visione? Adevech parla del fiume, dalla rugiada, quindi diventa un fiume che va in profondità, dove l'amore, la follia e la beatitudine dell'amore ci mandano proprio verso l'abisso. La sorgente divina e la sua foce sono un viaggio che ritornano allo stesso punto, che è proprio il divino, ed è il viaggio verso le profondità, alla scoperta proprio della nudità disarmante, della purezza e della verità dell'anima. Per Beatrice il sesto passo è quello dell'unione intima, della conoscenza profonda che porta pace, sicurezza e libertà. Non c'è più l'ardore dell'amore furente di prima, qui c'è sicurezza, c'è gioia. Ogni azione diventa facile e gradevole, senza paura, sia nelle situazioni di sofferenza, sia nelle situazioni di piacere. Quindi si inizia a trascendere anche questa dualità. Anche per Marguerite, l'unione è il sesto stato di grazia. dove lei introduce un concetto molto complesso che cercherò di spiegarvi in modo breve, che lei chiama come il lontano vicino. È questo lampo che prende l'anima, la porta verso l'unità assoluta per unirsi al divino. E l'anima diventa la divinità stessa. Qui il concetto di annichilazione di cui lei parla è proprio, si comprende in modo chiaro, cioè il distacco totale e la rinuncia persino alla spiritualità, come dicevamo prima, perché per evitare l'attaccamento in tutte le sue forme, anche alla spiritualità e alla divinità stessa. Qui proprio con Magcig il parallelo, come dicevamo prima, è molto evidente. La visione quindi è quella di entrambi gli occhi, quello interiore e quello esteriore. Per Teresa il sesto passo è quello delle prove delle visioni. Siamo vicini alla meta, ma ancora non possiamo tenere bassa la guardia. Le prove che ci vengono messe davanti dallo sposo possono essere sia piccole, ma anche significative come malattie e infermità. E l'intervento divino, secondo lei, è l'unico che può porre rimedio a queste prove. Allo stesso tempo, così come siamo messi alla prova, ci vengono regalati questi impulsi di grande godimento e allo stesso tempo di grande sofferenza, che lei chiama volo dello spirito, che sono delle vere e proprie visioni estatiche, chiare, che mandano messaggi anche illuminanti, che portano delle conoscenze profonde. L'anima sembra separarsi dal corpo e viene trasportata nella luce pura. E il corpo però sembra essere lasciato indietro. Qui sembra descrivere, con queste parole, Teresa sembra descrivere proprio le sensazioni che provava anche Hildegard von Bingen. Quindi anche in questo passo l'attenzione costante a noi e al mondo che ci circonda per vedere, per fare attenzione a quello che sta intorno a noi. Questa capacità di vedere è un dono che non dipende da noi, non si può acquisire meccanicamente perché noi siamo canali e quello che possiamo fare è metterci in accoglienza, in apertura, nella totale ricezione. Teresa parla e mette in guardia: totale ricezione non vuol dire ozio, perché l'amore non è mai ozioso, ma rimanere in guardia non vuol dire essere oziose, assolutamente. Il settimo passo, siamo arrivati quasi alla fine, l'ultimo passo è il passo della verità e dell'illuminazione. Qui acquisiamo la consapevolezza dell'unità. Come si raggiunge la consapevolezza? Allora, per Adeve, lei parla dell'inferno. Il settimo nome dell'amore è l'inferno, è quell'abisso che inghiotte tutto, che stravolge l'anima e la mente, perché, come dicevamo prima, il percorso è in discesa verso l'ignoto. E lei dice proprio che si è disposto a tutto per l'amore. E si lascia andare tutto anche verso l'abisso. Per Beatrice è la beatitudine. Lei qui cambia completamente registro quando parla del settimo modo di amare Dio e diventa molto raffinata, una prosa rimata, fa molta attenzione e mette molti dettagli soprattutto sui riferimenti anche alle scritture e allo stile del testo. Qui la passione che vedevamo nel quinto passo dell'amor purente si sublima e avviene l'unione con lo sposo, in quella che lei chiama l'eternità dell'estasi gloriosa. Il limite tra vita e morte è molto labile, sembra trascendere entrambe. La vita terrena diventa un tormento e un esilio, lei parla proprio di esilio e di privazione, perché tutto ciò che ci riporta alla dualità, a ciò che è terreno, è sofferenza, soprattutto una volta che si è arrivati a conoscere la luce divina. Marguerite parla di glorificazione, la glorificazione che avviene nel paradiso. E qui avviene proprio la fruizione piena della grazia divina. Il paradiso non viene, io non lo vedo in contraddizione all'inferno di cui parla Hadewijch nello stesso passo, perché per Marguerite il paradiso è vedere Dio con i suoi stessi occhi e lasciare che Dio veda noi con i nostri occhi. Quindi è proprio l'annullarsi l'uno nell'altro, non c'è più né la divinità né noi, siamo tutto un tutt'uno. Questo stato è raggiungibile solo quando l'anima lascia il corpo, quindi per lei non siamo più incarnati in questa materia, nella fisicità, perché diventiamo pura essenza e puro amore. Teresa parla del matrimonio con lo sposo divino nel settimo passo, nella settima stanza. Finalmente si raggiunge il centro del castello e si arriva all'unione con la divinità. Qui avviene proprio la liberazione dal timore e il raggiungimento della perfezione, in quello che poi lei descrive benissimo nella preghiera del Nada te turbe che Giuni Russo ha musicato in maniera veramente sublime. I doni che arrivano da questo sposo divino fortificano l'anima e si va, lei parla dell'umanità sacra, dove tutto è puro spirito. L'anima è completamente trasformata e anela soltanto allo sposo. Quindi, riassumendo un attimo il settimo passo, qui siamo in quello che è l'abisso e il paradiso. Siamo nell'inferno e il paradiso che diventa uno, la stessa cosa. Siamo nell'unione totale con il tutto, quindi. E con il tutto che è dentro di noi, nella semplicità, nell'umiltà e nella nudità. Siamo diventati anime semplici e annichilate, come direbbe Marguerite, o anime nobili. L'essenza è, in questo caso, la presenza nel qui e ora. Per Marguerite, abbiamo visto che appunto questo passo è lasciare il corpo, mentre per le altre è proprio la pura essenza, quindi il vivere nel presente, nel qui e ora, nello spazio-tempo, e quindi essere ovunque allo stesso tempo. Quindi la fine di questo percorso è raggiungere questa la consapevolezza che l'unica verità a cui possiamo mirare è l'amore, ed è quella forza che ci rende nude e forti allo stesso tempo, senza che ci sia contraddizione in queste due cose. E concludo, io nella mia tesina ho fatto tantissime citazioni perché mi piaceva l'idea di portare la loro voce, che è stata per tanto tempo messa a tacere. Ma siccome mi sono dilungata tantissimo, vi concludo con una breve citazione da Hadewijch, che parla proprio dell'amore. E recita così: mai nulla è perduto di ciò che si è fatto per amore. Amore ripaga sempre, presto o tardi. Amore è sempre la ricompensa dell'amore. Amore, amando, riconosce il costume dell'amore. Il suo prendere è sempre un dare. Amore, con le sue astuzie, dona molte morti nella vita.